Emiliano ha in mano una figurina particolare, che figurina è? Sì, era l'ultima produzione di figurine Forever, è una figurina solidale fumetto card dedicata a Blue Girl. Blue Girl è Sara Khodayari, che è questa ragazza tristemente famosa iraniana che è morta a 29 anni. Qual era la sua colpa, se tra virgolette colpa? Quella di voler andare a vedere la sua squadra del cuore, l'Esteghlal, che è una delle squadre principali iraniane allenate nel recente passato anche da Stramaccioni. E cos'è successo? Che lei ha cercato di introdursi allo stadio della partita, perché allora non era possibile in Iran andare a vedere le partite di calcio per le donne, si è travestita da uomo, è stata riconosciuta, è stata arrestata e poi dopo, durante la primissima udienza, si è resa conto che poteva arrivare a una condanna fino a 2 anni. E non lo possiamo sapere. Il mio pensiero è un mix tra disperazione e protesta, ha deciso di darsi fuoco ed è morta dopo qualche giorno a causa delle ustioni. Da lì è partita tutta una campagna internazionale con l'hashtag Blue Girl, che ha spinto anche la FIFA a fare spinta sul regime iraniano affinché, attenzione, affinché in alcune partite alle donne fosse possibile accedere allo stadio. Infatti l'abbiamo messo anche nella la cartolina, questa è una figurina, sotto c'è la cartolina e questa è una foto successiva a quanto è successo a Blue Girl. E questo è un fatto, però intendiamo, c'è stato un fatto, diciamo, come dire, una risposta ma non conclusiva, non è che il problema sia stato risolto, e anzi i problemi in Iran sono davvero tantissimi. E questa è una figurina solidale, come sono tutte quelle che produciamo noi, sono a tiratura limitata e numerata per quanto riguarda questa, diciamo, collector's edition, perché noi comunque siamo collezionisti di figurine, quindi la dobbiamo fare. E poi c'è anche la versione non numerata, che non ha un limite di stampa, perché, come è già successo con altre in precedenza, il nostro desiderio, il nostro pensiero è che possono essere anche un tramite per parlare dell'Iran, parlare di Amnesty International, con cui collaboriamo su questa iniziativa, e parlare di tante altre tematiche, e quindi magari la possibilità di andare in una scuola e incuriosire i ragazzi. Questo è un po' il messaggio delle nostre figurine, al di là della raccolta fondi, perché sono tutte a titolo, diciamo, benefico, è di fare passare un messaggio attraverso il fascino immortale delle figurine, magari incuriosendo le persone che, per tutta una serie di motivi, in una situazione normale non si sarebbero mai incuriositi di un determinato fatto. Ecco, quali sono le figurine che avete fatto di recente per sensibilizzare l'opinione pubblica? Beh, ne abbiamo fatte tante. Più che dirvi quelle che abbiamo fatto, che comunque, per dire, sempre collegate ad Amnesty, c'è stata quella di Federica Aldrovandi, c'è stata quella di Patrick Zaki, c'è stata quella di Vittorio Staccione, ci sono varie collane, ci sono le fumetto, poi ci sono le figurine vere e proprie. Vittorio Staccione, un grande calciatore del primo grande Torino degli anni 30, morto a Mauthausen, e ci tengo a dire quelle che avverranno dopo, perché il 2023 parte con alcune figurine molto importanti. Il Figucon, che ci sarà il 15 gennaio all'Estragon, sarà dedicata alla memoria di Carlo Castellani. Carlo Castellani, grande bomber dell'Empoli, è stato capocannoniere della squadra fino agli anni 2000, finché Ciccio Tavano non ha superato il suo record, e noi faremo una celebrity stipe in collaborazione con Named. Poco dopo scenderemo a Napoli e faremo una fumetto card in ricordo di Giuseppe Salvia, il vice direttore di Poggio Reale, ucciso da Raffaele Cutolo, dal mandante Raffaele Cutolo, una quarantina di anni fa. Insomma, sono tutte figurine. È un qualcosa di particolare, perché non è sempre facile lanciare il messaggio. Talvolta mi prendono per matto, perché dicono: come vuoi fare la figurina di un... E invece poi in realtà, poi quando toccano con mano, ci si rende conto che anche questo piccolo oggetto può fare la differenza.